che torci il cuore, sono un bagno di sudore, calore, c'è un caldo oggi che sembra di stare dentro ad un forno, nei pezzi di un motore, da cilindro e pistone, cilindro e pistone, cilindro, pistone. Alzami! Ce la puoi fare, alzami! Sento chiamare dal fondo del letto la mia gamba destra, si sente male. Ce la posso fare, ma non ce la fa, è sempre difficile fare affidamento sul messaggio trovato in mano, posti che io sono solito esplorare. Sarei